Iscrizioni in friulano sulle campane di Vergnacco presenti nella sigla di apertura e di chiusura delle trasmissioni di Friuli nel mondo. Per ogni campana un motto, un'immagine del santo cui è dedicata. Dedicare alla Madone la più grande ben sintone unche saltris dos vicinis. A San Marco e a San Tomas la seconde un inno e fas. Sant'Antoni che ste tiarce, un Francesc e chiappe in forze. L'ore sunin disdevore, peligrie, pelapore. L'ore sunin palafieste, quintri il fuc e la tempieste. Ma chi la suona? Alla corda di questa campana di Timau su Incarnia una donna. Gli uomini sono tutti emigrati, eppure proprio in questi desolati paesi della montagna il culto delle memorie si rivela più intimo e profondo. Dal passo di Monte Croce Carnico scendono comitive di austriaci che sostano al santuario ossario di Timau, dove accanto ai nostri riposano i loro soldati, morti a Palpiccolo, a Palgrande, sul Freikofel, al Volaia. Recenti i suffragi che accomunano i caduti dei due paesi, nella chiesa di Plechen in Austria, di Timau in Italia. La preghiera in lingua tedesca. Ich glaube an Gott Vater, der allmächtigen Schöpfer, Himmel und Erde, und an Jesus Christus, seine eingeborenen Sohn. Si confonde alla preghiera di una donna carnica, mentre l'organo diffonde le note di Stelutis Alpinis. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in unc et in ora mortis nostre. Amen. Pace ai morti. E anche alla pia donna che avete ascoltato e che per un tragico destino si è spenta improvvisamente pochi giorni dopo la registrazione per Friuli nel mondo. C'è di più, fu seppellita nel cimitero di Timau nel giorno stesso in cui voci dal mondo della radio-televisione italiana diffondevano il requiem da lei recitato per i caduti di tutte le guerre. Requiem eternam, dona eis domine, et lux perpetua, luce a teis, requiem scant in pace. Amen. E per tutti i morti del Carso, sepolti all'ombra dei cipressi pensierosi, per tutti i morti nei secoli accolti nella terra che serba le urne dei coloni di Roma, non pregano nella luce dei martiri cristiani le campane della Basilica di Aquileia? Il loro rombo scende dal campanile di Poppone, antico di 900 anni, edificato con le pietre dell'anfiteatro dei Cesari, Non un campanile da chiesa, osserva Ugo Oietti, ma una torre da fortezza, così alta e quadrata e imperiale e incrollabile, che le campane stanno appese lassù come un amuleto al collo di un gigante. E attorno per miglia non c'è di vivo che lui. All'ingresso del viale dei patriarchi, sotto quel gigante, i versi di un poeta friulano incisi nel marmo. Contadin che tu rompi slatiare di Aquilee, ferme i bus un momento. Sotto il chiam che la guargine e are, sotto la man che semene il forment, tal soreli e tal ombre dal nul, è un'impronte di Rome e la storie e la gloria del nesti Friuli. Infatti, nel ricordo del chant di Aquilee d'Enrico Fruc. Quant calzune l'antic campanil, non tu sintis un glon di campane, ma une voz che ti rive dal cil e l'eterne peraule ti dis. Une voz che traviarse la storia e la gloria del nostro paese. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, campane del Friuli, 25esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora, musica di Arturo Zardini.